Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Banca Italia parla di crisi epocale con PIL in calo del 10%, debito su di 21 punti. Bene gli aiuti europei, dice il governatore Visco, ma non sono gratuiti, siano spesi con pragmatismo. Verso la libertà di spostamento per tutti senza differenze tra regioni. Brusaferro conferma casi in diminuzione ovunque. Crisi dell'auto, Renault taglia 15.000 posti di lavoro nel mondo. Volkswagen rilancia l'elettrica con 2 miliardi di investimento in Cina. Calcio Serie A, si riparte il 20 giugno, il 13 invece riprende la Coppa Italia. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Partiamo dalle considerazioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulla situazione economica. La grave crisi innescata dal coronavirus avrà un impatto sul PIL fino ad un calo del 13%, un aggravio sul debito di 21 punti, una crisi che Visco definisce epocale e avverte gli aiuti europei che arriveranno non sono gratuiti. Sebbene un tasso di interesse migliore rispetto all'indebitamento usuale tramite titoli di Stato, insomma non saranno gratuiti, quindi invita a spenderli con pragmatismo. Sentiamo. Ci aspettano mesi di grande incertezza per l'economia, avverte il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, con una perdita del PIL in Italia del 9% quest'anno nello scenario base, che potrebbe scendere anche del 13% nelle ipotesi peggiori. L'occupazione scenderà, aumenteranno le disuguaglianze sociali. Sono importanti, sottolinea Visco, le misure messe in campo dal governo e dall'Unione Europea, ma non basteranno. L'Italia si ritroverà con debito pubblico e privato più alto di prima e oggi più di ieri, ha detto Visco, è necessario ammodernare la nostra economia, aumentare la produttività, investire su scuola, università e ricerca, infrastrutture, riformare la pubblica amministrazione e rendere più equo e leggero il sistema fiscale. Anche le imprese devono cambiare e innovarsi. Per affrontare tanta incertezza è però cruciale, oggi ancora più di prima, che siano rapidamente colmati i ritardi e superati i vincoli già identificati da tempo. Oggi più di prima, perché una cosa è sicura: finita la pandemia avremo livelli di debito pubblico e privato molto più alti e un aumento delle disuguaglianze, non solo di natura economica. Solo consolidando le basi da cui ripartire sarà possibile superare con successo le sfide che dovremo affrontare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E una stima del rallentamento dell'economia arriva oggi anche dall'Istat, che parla del calo della spesa delle famiglie italiane, meno 7,5%. Confermata la crescita dei prezzi per il carrello della spesa e il calo del PIL, eccezionale e peggiore rispetto alle stime diffuse dall'Istat un mese fa. Nel primo trimestre del 2020, infatti, il PIL dell'Italia è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% nei confronti dello stesso periodo del 2019. Evidente l'impatto coronavirus, che fa dire all'Istituto di Statistica che mai dal primo trimestre del 1995 si è registrata una flessione così pesante. A trascinare la caduta del prodotto interno lordo è stata soprattutto la domanda interna, con un calo del 5,1% dei consumi finali e dell'8,1% degli investimenti fissi lordi. Andamenti negativi in tutti i principali comparti produttivi, con l'industria che registra un marcato calo sempre dell'8,1%, giù anche import ed export. Calano comunque di circa 4 punti percentuali le ore lavorate, come anche i consumi delle famiglie. Ai minimi la spesa in Italia, soprattutto per beni durevoli, dalle auto ai mobili, ma anche per l'abbigliamento. Tengono solo gli alimentari, con un calo lieve, e nonostante a maggio l'inflazione in Italia torni negativa per la prima volta da ottobre 2016, per la forte flessione dei prezzi dei carburanti, aumentano però i prezzi del carrello della spesa, su a maggio di oltre 2,5 punti percentuali per beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fin qua dunque la pagina della situazione economica. Il governo intanto riunirà domani le regioni per definire un percorso verso la riapertura fissata per il 3 di giugno, degli spostamenti tra le regioni. Ne parleremo tra poco. Prima però sentiamo le parole del presidente dell'istituto Silvio Brusaferro, poco fa, che ha fatto il punto sull'andamento del contagio e ha confermato il calo sta avvenendo su tutto il territorio nazionale. In tutte le regioni c'è un decremento. Ovviamente il decremento numericamente è diverso a seconda che la circolazione sia stata elevata o più bassa, ma fortunatamente abbiamo anche alcune regioni del sud dove passano intere giornate passano più di qualche giornata, dove singoli casi non vengono identificati e quando vengono identificati sono abbastanza sporadici. E ci avviamo adesso con la prossima settimana a una sfida ancora più importante, che è data dal fatto che sarà liberalizzata la mobilità tra le regioni e anche quella internazionale, il che richiede ovviamente una capacità ancora più attenta, ancora più precisa di monitorare i fenomeni e di rispondere laddove si dovessero verificare casi o piccoli focolai. E ora sentiamo come è orientato il governo in attesa dei dati definitivi sulle regioni, appunto, sentiamo. Riaprire tutte le regioni il 3 giugno, al massimo una settimana più tardi, ma procedere in maniera unitaria senza distinzioni. Resta questa per ora la linea del governo espressa ieri dal ministro per gli affari regionali Boccia, a meno di improvvise impennate di contagi. Sorvegliate speciali sempre alcune regioni del nord, in particolare la Lombardia, e l'attenzione è puntata sui prossimi dati che terranno conto anche delle riaperture del 18 maggio e dell'effetto dello scorso fine settimana, quando in diverse città italiane le piazze della Movida si sono riempite di giovani. E una decisione del governo arriverà entro domenica, ma intanto continua il pressing delle regioni. Il governatore della Sardegna Solinas, nonostante l'Alto Lab di Boccia, insiste sul passaporto sanitario, e anche il governatore siciliano Musume ci parla di protocolli sanitari per far arrivare i turisti in sicurezza, misure che, ostacolando la libera circolazione, sono contrarie alla Costituzione, ha messo ben chiaro il ministro per gli affari regionali, mentre l'assessore alla sanità della regione Lazio, D'Amato, avverte: ci sono troppe pressioni politiche affinché il nord riparta, non accetteremo forzature e siamo pronti a contromisure. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dopo la bocciatura da parte del ministro degli affari regionali Boccia all'ipotesi di un passaporto sanitario proposta dalla Sardegna per accogliere i turisti nell'isola quest'estate, la presidente della Calabria Iole Santelli smentisce l'ipotesi di voler fare altrettanto e chiarisce ai microfoni di Radio 24 questa mattina, 24 mattina, che la regione è aperta ai turisti e anzi, in caso di nuovi focolai, si ragionerà non per regioni ma per zone. Sentiamo. Porte aperte, la Calabria gli aspetta nella sua veste migliore, e credo che fare una vacanza in Calabria significa poi ritornarci sempre. Laddove si dovessero rintracciare, ci auguriamo tutti che non accada, dei focolai, credo che non si possa parlare di regioni ma eventualmente di zone. Se ci sono delle zone in cui si intracciano dei focolai, possono essere tranquillamente chiuse in zona rossa e controllare in partenza. Se ci sono, e mi auguro di no, delle zone precisamente individuate, e da quelle evitare eventualmente e controllare le partenze. Dopo la polemica innescata dalla Fondazione Gimbe sui dati del contagio in Lombardia, dati che tenderebbero a presentare una situazione migliore di quella che è realmente, secondo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sentiamo la risposta oggi, sempre ai microfoni di Radio 24, del direttore dell'ATS di Milano, Vittorio De Micheli. Che se fossero stati manipolati probabilmente avremmo dipinto una situazione molto migliore di quello che abbiamo dipinto. Non siamo dei bravi manipolatori, perché quella, la sensazione dal punto di vista dei numeri è sotto gli occhi di tutti, no? Mi sembrano accuse veramente strampalate, nel senso che la Lombardia resta la regione dove l'epidemia è stata più intensa. Quello che bisogna invece sottolineare, diciamo, questo è un po' inaccettabile da un punto di vista di un medico che si occupa di epidemiologia, è invece lanciare delle accuse che inquietano i cittadini. La situazione in Lombardia, come in gran parte d'Italia, lo dicono i numeri dell'Istituto Superiore di Sanità, è una situazione sotto controllo. Restiamo però in Lombardia, perché il presidente della regione Attilio Fontana si trova in procura a Bergamo per essere sentito sul caso dell'ospedale di Alzano, sulle morti nelle RSA e anche sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. È durata poco meno di 2 ore l'audizione del presidente della Lombardia Fontana, convocato in procura a Bergamo dai PM che indagano sul caso dell'ospedale di Alzano, sulle morti nell'RSA e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Fontana ha lasciato l'edificio della procura presidiato dalle forze dell'ordine. Il presidente è sentito come persona informata sui fatti allo stesso modo dell'assessore Gallera, il cui colloquio coi magistrati ieri è durato circa 3 ore. Davanti alla procura un sit-in di protesta di una decina di persone contro la gestione dell'emergenza coronavirus, con uno striscione che recita: Fontana, Bergamo non dimentica. Ieri al pool di magistrati l'assessore Gallera avrebbe ribadito di aver aspettato Roma fino all'inizio di marzo perché si era sempre proceduto d'accordo col governo su quel tipo di provvedimenti, ed è questo uno dei temi di principale interesse della procura, la mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano, che era invece scattata a Codogno 24 ore dopo la scoperta del paziente 1. Oggi ai cronisti Gallera ha detto dei magistrati l'impressione positiva di persone che vogliono approfondire in un clima di grande serenità e collaborazione. Continuiamo a lavorare tranquillamente, nessuno commissaria nessuno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora una notizia economica: la casa automobilistica Renault ha annunciato un taglio del suo organico di 15.000 persone, di cui 4.600 in Francia, su un forza lavoro complessivo di 180.000 persone. I licenziamenti arrivano, fa sapere Renault, nel quadro di un piano triennale di risparmi che però è aggravato dalla crisi Covid. Il presidente Macron, ricordiamo che lo Stato è azionista di Renault al 15%, ha recentemente annunciato un piano da 8 miliardi di soccorso al settore. Investimenti invece per Volkswagen, che ha annunciato oggi 2 miliardi di euro in Cina nel settore dell'auto elettrica. E adesso invece ci occupiamo di questo ponte del 2 giugno, caratterizzato da diverse riaperture, non solo le spiagge in diversi litorali, per esempio quello romano, ma ne parleremo più avanti, ma anche musei e siti archeologici. Il 2 giugno sarà non solo la festa della Repubblica, ma una vera festa dell'arte. Con la riapertura dei cancelli di luoghi simbolici come gli scavi di Pompei e il Colosseo, l'arte è di nuovo accessibile al pubblico lungo tutta la penisola, con un calendario fitto che riguarda siti e palazzi, ma anche piccoli musei e mostre che il lockdown aveva chiuso in anticipo. A Milano riapre in via sperimentale per pochi giorni la Pinacoteca Ambrosiana, ma riaprono anche Palazzo Reale con le sue mostre, tra cui quella dedicata a Georges de Latour, e il MUDE, dove si può accedere per ora solo alla collezione permanente. Sempre a Milano riaprono le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala con la mostra Sukhanova e Thorvaldsen. A Torino riaprono Palazzo Madama e il Museo Nazionale del Cinema, mentre a Firenze, oltre a Palazzo Vecchio, riapre la Galleria dell'Accademia ed esce finalmente dalla quarantena il David di Michelangelo, icona mondiale del Rinascimento. A Napoli riapre il Museo Archeologico Nazionale, così come le Gallerie d'Italia Palazzo Zevaglio Stigliano, con la mostra su Davide Caravaggio, mentre in Sicilia ingresso gratuito fino al 7 giugno a tutti i musei e le aree archeologiche. Infine riprendono le visite ai beni del FAI. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che tutti i sabati e le domeniche mattina Radio 24 propone due bellezze da scoprire e da visitare in Italia in questo periodo, nei GR delle 7 e delle 8 del mattino. 13:13, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie, ripartiremo dalle novità del documento messo a punto dalla task force del ministro Azzolina sulla riapertura della scuola a settembre, dunque qualche punto può essere già posto forse, quindi vi diremo qualche notizia, speriamo. E poi dalle 13:30 invece una riapertura attesa, che è quella delle spiagge, e andremo sul litorale di Ostia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Banca Italia parla di crisi epocale, PIL in calo del 10%, bene gli aiuti europei, dice il governatore Visco, ma non sono gratuiti, siano spesi con pragmatismo. Verso la libertà di spostamento per tutti, senza differenze tra regioni. Brusaferro conferma: i casi sono in diminuzione ovunque. Scuola, ecco il documento della task force Azzolina. Mascherine, didattica a distanza e ore di 40 minuti, ne parliamo tra poco. Calcio, la Serie A riparte il 20 giugno, il 13 invece riprende la Coppa Italia. 13 e 16 minuti, cari ascoltatori, questi titoli di oggi, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. E allora, come anticipato, parliamo della scuola, delle novità che ci sono questa volta per quanto riguarda le modalità con cui si riaprirà la scuola a settembre. È con noi Lorella Carimali, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Lei è professoressa di fisica al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano ed è membro della task force del ministro dell'istruzione Azzolina. Allora faccio un piccolo cappello introduttivo per ricordare come ci si è mossi su questa questione della scuola. Il comitato voluto dal ministro ha messo a punto un primo documento finale o intermedio, adesso capiremo perché, con una serie di proposte. In gran parte, se abbiamo capito bene, sono un lungo documento, sono molte proposte di metodo, non regole stringenti, non aspettiamoci regole stringenti, ma un armamentario di soluzioni che le scuole avranno a disposizione, partendo dal fatto che ci sono molte differenze sul territorio italiano per quanto riguarda appunto il territorio, ma anche gli ordini delle scuole elementari, medie e superiori. Ora questo documento è in mano al ministro Azzolina, che però dovrà integrarlo, e qui la fare si complica, direbbe qualcuno, con i paletti del comitato tecnico scientifico su aspetti più appunto tecnici. Intanto è corretto questa descrizione? Sì, l'ha fatta abbastanza bene. Grazie. Sono contenta che abbia fatto quanto, così. Quanto mi dà? Un 6 meno. No, un bell'otto. Un bell'otto. Perché sono molto, molto contenta, perché sì, Stanno uscendo notizie su tutti di i giornali. Di più. Di tutto di più, e io mi chiedo, ma io ho scritto e noi abbiamo scritto quelle cose. Ecco. Allora, però, Carimali, effettivamente questo è un punto, perché la stampa a volte costruisce, a volte esagera, enfatizza, a volte inventa in assenza anche di notizie. Allora, se ci sono cose che sono state dette che non ci sono nel documento, adesso questo ce lo dirà, perché poi se dal documento si estrapola, per esempio, la questione dei 40 minuti dell'ora, c'è questa cosa della possibilità dei 40 minuti l'ora ridotta, per esempio, per dirne una? Per dirne una c'è la possibilità dell'ora ridotta, c'è scritto fino a un minimo, non la puoi ridurre a 30 sì, minuti, abbiamo cercato di dare un limite, siccome l'obiettivo sì, principale nostro era quello di mettere le scuole proprio in grado di riaprire a settembre, adottando sì, le modalità didattiche e organizzative più adeguate al contesto per offrire il miglior servizio scolastico possibile in linee di indirizzo, ecco, generali. E sì, quindi l'autonomia non può essere, no, anarchia. Quindi se ci sono le scuole sì, che per la loro organizzazione vogliono utilizzare una flessibilità oraria, noi abbiamo detto ci deve essere però un limite, ecco, non sotto e quindi il limite 40. È 40 minuti, però ben diverso, spieghiamo, no? Anche a che cosa serve questa flessibilità oraria, perché se ho capito bene si riduce potenzialmente in alcuni casi la durata dell'ora perché si devono sdoppiare le classi e quindi allora non è fatto anche lì, anche questa è un'altra cosa. Allora le scuole devono organizzarsi al meglio, poi ci saranno scuole ad esempio che non hanno bisogno di sdoppiare, di dividere sì, però spieghiamo il perché, non diamo per scontato nulla perché la gente non sa niente di tutto questo, spieghiamo perché ci potrebbe allora, essere l'esigenza di tutto, se di... mi consente sì, voglio togliere un equivoco perché ci confondono sempre con il CTS. No, il no, CTS, ma questo chi ci segue lo sa benissimo. Sì. Però chi ci okay, segue sa cos'è il CTS, sa cosa siete voi, ma non sa cosa avete, diciamo, delineato voi. Torniamo ancora a questa cosa dei 40 minuti. Perché si fa questa ipotesi? Perché in alcuni casi, provo a spiegarlo io. Sì, provi, sì, io poi le do il voto. Ecco, mi dà il voto come abbiamo fatto prima, speriamo di essere preparato. In alcuni casi, se le classi sono troppo numerose, si dovranno in qualche modo sdoppiare. Allora, metà alunni faranno, che ne so, la matematica curricolare, altri metà faranno attività extra, tipo musica, sport, arte. E quindi ci si concentrerà in un'ora magari più corta per consentire una snellezza maggiore dell'orario e anche per avere a disposizione gli stessi docenti su più ore. Perché questa cosa non è insufficiente, ad esempio, non è così. Non è, è soprattutto quella, non è così, perché noi diciamo, voi potete avere flessibilità oraria per organizzare quello che sì, volete fare meglio, perché ad esempio se, se c'è un, alcune scuole possono pensare di fare attività sul territorio. Allora voglio dire, non è che ci vorrà del tempo per arrivare sul territorio, sì, quindi la flessibilità oraria serve per fare meglio quello che si vuole fare, non per avere, sì, perché noi abbiamo chiesto. Però mi scusi, che... il punto di partenza è sempre quello che non si può fare la scuola come l'abbiamo fatta fin qua, adesso, perché troppi alunni nella stessa classe non ci possono questo stare. Sicuramente quindi, ecco, sì, infatti, il punto di partenza, sa perché le ho fatto quell'esempio? Mi scusi, perché abbiamo sentito ieri una docente italiana che lavora in Germania, è esattamente lo stesso criterio che, se ho capito bene, state cercando di introdurre anche sì, voi, stanno usando anche loro. Se mi permette, sì, di razionalizzazione della spesa, perché se questo vuol dire, noi infatti contestualizziamo nello stesso modo, abbiamo chiesto che, abbiamo detto che, non chiesto, perché noi facciamo solo delle proposte per sì, un'apertura ottimale, e quindi e ci vorranno anche poi non è solo al ministero, perché alla politica, anche all'amministrazione, perché poi ci saranno anche delle leggi, perché c'è un contratto nazionale, quindi c'è bisogno anche di interfacciarsi con i sindacati. Però noi abbiamo chiesto anche un 15% di personale in più, non solo di insegnanti, ma di personale ATA. Abbiamo chiesto che ci siano, abbiamo detto che dovrebbero esserci in tutte le sedi i presidi, abbiamo detto che bisogna definire anche un incremento del contingente organico che adesso è fatto su classi da 30. Cioè noi abbiamo cercato, abbiamo lavorato in un mese in modo da dare una serie di proposte che permettano l'apertura a settembre. Senta, poi sarà la politica. Un paio di aspetti, diciamo, un po' più stringenti, che magari lei non è in grado di rispondere perché non li avete proprio affrontati, però me lo può anche dire tranquillamente. Credo però che sia interessante sapere per le famiglie: la scuola riaprirà alla data consueta o si tenterà un anticipo, come si era ventilato un po' di tempo fa, per partire? Allora, anche questa cosa, allora, la data di apertura è quella che viene concordata con le regioni, quindi sì, è sempre funzionato così. La scuola in sé apre sempre il primo di settembre, in sé ha sempre aperto. Quindi non cambierà nulla neanche quest'anno, insomma, in sostanza. No, nel senso che la scuola ha sempre organizzato, nel rispetto del calendario, le attività più consone. Sì, vabbè, quindi... i corsi di recupero, gli esami di recupero, queste cose qua. Però lasciamo, poi l'attività in genere inizia un po' dopo. Credo di capire che non ci siano novità da questo punto di vista. Poi magari qualche scuola... ripeto, io spero che sì, poi il documento venga reso pubblico, perché certo, 60 pagine sono tante, e ci sono proposte normative ovviamente anche che devono passare poi per il Parlamento, quindi certo, per questo ci dico... sarà una sintesi politica. Senta, invece, sulla questione, altra questione che interessa molto, la didattica a distanza. Qualche giorno sì, fa il vice ministro Ascani, anticipando un po' anche il lavoro che avete fatto voi, ci ha detto che verosimilmente, per esempio, le elementari dovrebbero non esserci necessità di fare le scuole elementari didattiche a distanza. È giusto? Ce lo conferma o non è così? Sì, noi abbiamo lavorato in modo che ci fosse la presenza, in modo tale che la socialità, che è fondamentale sempre per i piccoli, sì, però ecco, lì le mascherine non siamo noi. In che senso, scusi? A dettare le regole delle mascherine, questo è sempre il CTS. Sì, ecco, questa è un'altra questione, le mascherine, perché per esempio in Germania non sono obbligatorie durante l'ora di lezione, lo sono all'ingresso, all'uscita, o qua ogni qualvolta un ragazzo si alza, quando sono seduti, no. Voi avete dato una vostra opinione? Non era sanitaria. Richiesta, non era richiesta. Noi no, noi abbiamo fatto in modo che si potesse riaprire in presenza nei vincoli sanitari che vengono dati. Tornando alla didattica a distanza, scuole elementari speriamo che si riesca, anche perché c'è un rapporto più favorevole tra alunni e insegnanti, a non certo. doverla fare. Scuole medie invece siamo già sul limite, cioè sarà necessario, o anche lì si riuscirà ma a non fare? L'idea è per tutti di tenerli il più possibile a scuola, o perlomeno tutte le attività fondamentali per la socializzazione che si mantengano. Ad esempio, questo non è che ci sia nel documento, ma mi viene in mente, insegnando alle superiori, che ad esempio anche le prime superiori, che è la prima volta sì. che si incontrano, penso che le scuole poi faranno in modo di dare precedenza ecco. a loro, no? Sì, quindi, questa è una proposta, questa è una bella proposta, cioè dare... fare una scelta, fare una scelta. Per questo noi, guardi, lo so che per i non addetti ai lavori è più difficile da far capire. Per questo noi abbiamo cercato di liberare le scuole da tutti quei vincoli, dove possibile, burocratici, che gli non permettevano l'agire dell'autonomia, in modo tale anche, soprattutto un'altra cosa fondamentale che ci si dimentica sempre dell'autonomia, che sono gli organi collegiali. E negli organi collegiali c'è l'espressione di tutte le componenti. Va bene, l'autonomia resta un principio centrale anche in questa fase, quindi poi vedremo come verrà declinata. Io la ringrazio intanto, Lorella Carimali, grazie per essere stata con noi. Questo dunque è il punto sulla scuola. Vi ricordo che tutto questo poi verrà fatta una sintesi da parte del governo, del ministro, si terrà conto anche dei paletti ulteriori del comitato tecnico scientifico. Non è escluso, io lo butto lì così, che succeda come è successo per le linee guida per i bar e i ristoranti, che dopo tutto questo lavoro poi si butti via tutto e si dica no, è troppo complicato, facciamo cos'ha, perché con i ristoranti è successo in quel modo, ricordiamoci, 2 metri, 4 metri quadri di distanza, di spazio, plexi, alla fine siamo detti fate quello che potete, un metro di distanza, perché sennò non si riapre. Quindi anche sulla scuola naturalmente tutto ciò va preso con le pinze. Adesso invece apriamo un altro spazio ed è dedicato all'andamento del monitoraggio. Torniamo in Lombardia, parliamo della presenza di anticorpi, dei test sierologici. C'è il lavoro fatto dall'Università Bicocca sui suoi dipendenti, in particolare a questo è dedicato il reportage domani mattina alle 8:15 di Rosanna Magnano. Sentiamo che cosa emerge. A Milano, tra il 6 e il 13% di cittadini asintomatici hanno avuto un contatto con il virus SARS-CoV-2. È il risultato di un'indagine avviata dall'Università Bicocca in collaborazione con il gruppo ospedaliero Multimedica per valutare la prevalenza degli anticorpi tra i dipendenti delle due realtà. Sotto la lente finora un campione di circa 3.600 lavoratori asintomatici e apparentemente in buona salute, ma che secondo i test effettuati fino a 13 su 100 sono stati o sono potenzialmente infettivi. La mappa del virus, prove di test a Milano, è il reportage che ripercorre le tappe salienti di questo progetto epidemiologico, che andrà in onda su Radio 24 sabato 30 maggio alle 8:15 e in replica martedì 2 giugno alle 13:15. Roberto Mattioli, responsabile del servizio di follow-up pazienti Covid dell'IRCS Multimedica. L'allarme deve essere comunque mantenuto, cioè nel senso noi non abbiamo un campione così ampio per poter dire è una significatività importante, però il trend è quello della presenza di una positività in termini di tampone, quindi di infettività, su pazienti che sono asintomatici. E quindi questa è l'attenzione che dobbiamo porre, quindi la capacità di incrementare il numero di osservazioni sierologiche e tampone conseguenti ci deve portare a dare una tracciabilità del movimento e della presenza del virus. Dobbiamo lavorarci di più. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:30, facciamo un piccolo break. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Parleremo di come ci si sta organizzando, non senza difficoltà, non senza polemiche, tra il 10° municipio e i titolari delle concessioni, gli operatori degli stabilimenti balneari, per riaprire la spiaggia a Ostia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Banca Italia parla di una crisi epocale, con il PIL in calo del 10%, il debito su 21 punti. Bene gli aiuti europei, dice Visco, ma siano spesi con pragmatismo. Verso la libertà di spostamento per tutti, senza differenze tra le regioni. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, conferma: i casi sono in diminuzione ovunque. Il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da numerose riaperture, dagli Uffizi alle spiagge di Ostia. Calcio, la Serie A riparte il 20 giugno, il 13 invece riprende la Coppa Italia. 13:35 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, non leggerò nel dettaglio, ce ne sono tantissimi, abbiamo fatto una sola intervista nella prima parte dedicata alla scuola con un membro del comitato Azzolina, che purtroppo, diciamo, non ha aiutato a chiarire i dubbi delle persone. Sono tutti messaggi molto critici, nel senso: non si capisce, così non si va da nessuna parte, eccetera. Ora io voglio dire, anche spezzare una lancia a favore degli insegnanti e del membro della commissione che abbiamo sentito poco fa. L'Italia è un paese estremamente complicato da tante cose, dalla burocrazia, dai livelli amministrativi, dalle garanzie sindacali, dall'autonomia scolastica, da tutto. È un paese che abbiamo costruito così, complicato, democratico ma complicato. Ecco, quindi diciamo non è muoversi dentro questo non deve essere semplice, quindi immaginiamoci il lavoro che devono avere cercato di fare anche questi personaggi. Però ecco, certo, un po' di chiarezza, perché la gente brancola nel buio, un po' di chiarezza sarebbe stata necessaria, anche un po' di sintesi. A cosa serve un documento di 60 pagine se poi non si capisce nulla, si capisce poco da tutto questo? Forse su questo si potrebbe ancora riflettere. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La prima assemblea della Banca d'Italia in remoto prende atto della situazione drammatica e sconosciuta che ha imposto il coronavirus al mondo intero. E il governatore Ignazio Visco diventa socratico quando annuncia che l'atteggiamento più corretto è quello di sapere e di non sapere, soprattutto cosa accadrà nel lungo periodo e come sarà la nostra nuova normalità. Nel breve però le tendenze sono molto chiare, soprattutto è chiaro che serve un progetto paese che abbia a cuore le riforme che l'Italia non ha mai fatto. Quella del fisco, perché sono troppi gli evasori e troppo il sommerso, quella delle infrastrutture bloccate da troppo tempo, ma soprattutto quella della scuola, che significa capitale umano. Il contesto è epocale e serve quindi un nuovo contratto sociale, posto che tutti dobbiamo avere chiaro che il debito fatto esplodere in queste settimane dovrà prima o poi essere restituito. La risposta naturalmente è nelle mani della politica. Solo con un'azione lungimirante si creano le condizioni di fiducia per ripartire, o per creare le premesse per ripartire. Gli investimenti sono in fase di congelamento e questo è il dato più preoccupante monitorato dall'Osservatorio della Banca d'Italia. Non basta dire ce la faremo, avverte Visco. La retorica dell'ottimismo da sola non è sufficiente. E va bene, 13:38 minuti, ecco noi Giuliana Di Pillo, presidente del 10° municipio di Roma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il 10° municipio comprende anche il litorale di Ostia e dintorni, e stiamo parlando, insomma, di una buona notizia, perché si torna in spiaggia e chi diciamo all'interno della regione ha al mare, alle spiagge, come per esempio voi, ha questa possibilità. Insomma, si poteva già andare da un po' a fare il bagno tornando indietro, eccetera. Adesso però si riaprono proprio le spiagge, la stagione, insomma, tutti noi sogniamo di rilassarci un po'. Come però? Questo è il punto. Mi sembra di capire che ci sono due tematiche separate, una che riguarda le concessioni di stabilimenti balneari organizzati con titolari dove si paga, eccetera eccetera, e poi c'è il tema delle spiagge libere, dove comunque deve intervenire sicuramente una garanzia pubblica, un controllo anche, che si evitino assembramenti. Partirei però dalle concessioni, no? Dagli stabilimenti balneari. Che tipo di soluzione avete trovato? So che c'è stata discussione sul distanziamento degli ombrelloni, sullo spazio, discussione c'è stata un po' in tutte le spiagge italiane, soprattutto gli operatori. Voi che tipo di equilibrio avete raggiunto a Ostia? Guardi, noi ovviamente abbiamo aspettato le disposizioni del decreto e poi dell'ordinanza regionale, che prevede che ci sia un distanziamento per gli ombrelloni previsto come quello del, nei vari PUA dei comuni. E in questo caso noi siamo sui 10 metri quadrati e ci sono i gestori che praticamente qualcuno ha utilizzato la distanza minima, altri invece hanno utilizzato una distanza maggiore, quello dipende da loro, insomma, da come hanno le spiagge e tutto. Diciamo che la cosa principale è il mantenere la distanza sociale, questo insomma ormai lo sappiamo, dobbiamo vivere in questa maniera qua, quindi il distanziamento è ciò che caratterizza questa stagione balneare, sia nelle spiagge in concessione che in quelle libere. Ovviamente sì, le spiagge in concessione hanno anche poi da gestire quello che è tutta la parte relativa alla ristorazione bar che hanno, e su quello loro devono seguire ciò che è previsto nel decreto per i ristoranti, insomma, quindi anche lì distanziamento dei tavoli e quant'altro, eccetera, eccetera. Senta, come diciamo rappresentante anche politico di questa realtà, insomma, e del litorale romano e di questa questione delle attività economiche e della fruibilità anche da parte dei cittadini, c'è la preoccupazione per un rialzo dei prezzi che possa generare una selezione ancora più accentuata, no? Chi se lo può permettere riuscirà ad andare al mare in spiaggia, chi invece già non se lo poteva permettere prima adesso avrà ancora più difficoltà, perché è possibile che gli operatori, a fronte di tutte queste limitazioni, cercheranno di rientrarci aumentando un po' i costi. Chi non ha i soldi in tasca che deve fare? Guardi, chiaramente questo è un problema generale, nel senso che questa crisi è una crisi che ha investito proprio tutti, sia i cittadini che si ritrovano in tasca meno soldi da spendere, ma questo in senso generale, sia che gestisce tipo di attività di qualsiasi entità che è stato chiuso e quindi ha avuto le sue difficoltà. È chiaro che in questo percorso noi abbiamo cercato di trovare un equilibrio per quanto riguarda la stagione balneare anche con i gestori, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo cercato anche di arrivare all'ordinanza in maniera diciamo condivisa e di certe regole, certi principi che potevamo mettere insieme proprio per superare il Covid, cioè l'emergenza Covid. Cosa dire? Per fortuna il nostro litorale offre una vasta gamma di spiagge, perché è vero che sono tante le spiagge in concessione, sì, però è anche vero che sono anche insomma la spiaggia di Castel Porziano, Capocotta, che sono quelle attrezzate, e le spiagge libere anche di Ostia. E ce ne sono in buon numero, e quindi noi abbiamo cercato insomma di intanto di aprire proprio il 29 quando la regione lo consentiva, quindi non abbiamo cioè, oggi si può andare in spiaggia libera, sì, per esempio. Ieri è uscita l'ordinanza e quindi oggi è proprio ufficialmente aperta la stagione. Ecco, ma in spiaggia libera chi è che diciamo controllerà? In spiaggia libera noi abbiamo praticamente fatto tutto quanto un progetto che è un piano proprio strategico. In pratica, per garantire il contingentamento, è chiaro che le spiagge hanno una superficie e più di tante persone nello stesso momento non potranno contenere, perché è ovvio che bisogna mantenere la distanza di sicurezza, questa è proprio la regola principale. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo in pratica abbiamo degli accessi controllati dove ci sono degli steward che contano in pratica le persone che entrano in spiaggia. E quindi oltre un certo limite non si può andare. Oltre un certo limite la spiaggia ma non sono, è... Ma sono diciamo, personale pubblico, sono agenzie private, che cosa sono? Sì. Abbiamo affidato il servizio a una ditta, sì, che farà questo proprio insomma di vigilanza, e per consentire poi alle persone di distribuirsi in maniera omogenea su tutta la superficie della spiaggia abbiamo messo degli indicatori di posizione, chiamiamoli così, che sono delle paline di legno, delle semplicissime paline di legno posizionate a 7 metri di distanza l'una dall'altra. Intorno ad ogni palina c'è un'ideale area di 25 metri quadrati che accoglie 6 persone e più o meno è la distanza poi che avrebbero due ombrelloni, insomma, quindi è tutto quanto per indirizzare le persone. Bisognerà dove anche si devono posizionare. Bisognerà anche provare, no? Provare per vedere come funziona, eventualmente aggiustare il tiro. E questo è il modo in cui vi state organizzando per quanto riguarda la riapertura a Ostia. Grazie Giuliana Di Pillo, grazie per essere stata con noi. Grazie la a presidente voi. Del decimo municipio di Roma. Grazie. Carlo Genta, Habemus Data. Sì, abbiamo data. Finalmente. È vero, ne abbiamo parlato per tanto, tanto tempo. 13 e 14, con ogni probabilità, perché si sta ancora discutendo oggi in Lega sulla definizione precisa del calendario e sugli orari delle partite, che sono due temi estremamente importanti. Però, insomma, dovremmo avere a Coppa Italia le due semifinali di ritorno il 13 e 14, sabato e domenica. Il 17, la finale di Coppa Italia, però Inter in particolare, ma anche Milan e Juventus, non sono convinte di partire così, con due semifinali e una finale a strettissimo giro di posto dopo tutto questo tempo, ma in ogni caso da qualche parte bisogna pur cominciare. E mentre Napoli al momento sta zitto, e poi oggi dalla Lega si deciderà se riprendere dai recuperi delle gare saltate a marzo prima dell'inizio di questo periodaccio, e poi nel weekend successivo, cioè quello del 20, e poi ci sarà turno infrasettimanale la settimana successiva, ma ai turni infrasettimanali dovremo abituarci perché ce ne saranno un sacco da qui fino al 2 agosto, quando si concluderà a rotta di collo questo campionato. Poi agosto sarà il mese delle coppe e il 17 di giugno l'UEFA ci dirà come. Oh, ma hai fatto un elenco che adesso me lo devo ripetere a memoria, perché esatto, perché sennò poi mi perdo. Grazie Carlo. Ciao, grazie Alessio. Carlo, questa lunga vigilia la continuiamo a vivere all'interno di tutti i convocati dopo il giro delle 14. Noi ci fermiamo, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.